piccoli problemi di cuore e ale ale ale ho ho. Che bella notizia! Allora ragazzi, è ufficiale, da lunedì ci troverete su Rock FM. Ragazzi, che bello! Ci divertiremo come mai. Ma non fai colazione? Aspetto l'ispirazione. Scegli una colazione diversa. Scegli pane, burro e rock and roll. Ed eccola qui la vostra colazione. Aspettavate l'ispirazione? Sono le 7:30 secondi. Chi vi parla è l'Ariele Fizzante, il DJ Ariele, negli studi di Rock FM, messo malino oggi. E ho paura che, essendo mercoledì e avendo le giornate che mi aspettano parecchio croccanti, sarà sempre peggio. È tutta in salita questa settimana, mio caro Spadino, il nostro regista, già dall'altra parte del vetro, in una Milano ancora racchiusa nell'oscurità, tra l'altro nella stessa oscurità con la quale l'ho lasciata ieri sera, quindi ormai io la vedo solo così la città. No, non utilizzare questo microfono per parlare dei tuoi problematici, caro Ariele, e invece raccatta le forze che allora hai ancora in corpo per lanciare la sigla. Eccola qua. Arriverà anche quest'oggi Roberto Fricantoni. Ci sarà l'almanacco anche in questo 28 di novembre. Ma chi lo sa? Pane, burro e rock and roll. Intanto è già arrivato il primo SMS della giornata. La tua colazione rock. Ha vinto Andrea. Pane, burro e rock and roll. Con una segnalazione milanese. Babbo Natale appeso in viale Monte Ceneri 36. Ciao. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Io ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Fabione, è sua l'armonica della siglona, puntata 139 va a cominciare, puntata delirio. Ho già una scaletta bella ricca, chissà cosa andremo a combinare quest'oggi. È già arrivata anche la prima mail della giornata, targata Carlo. Solitamente quando arriva così presto è perché ci sono buone notizie sui numeri del lotto dati nella puntata precedente, e infatti c'è un'ottima notizia che vi riferirò tra pochi istanti. Il tempo di dare inizio musicale a questa trasmissione con il mitico Bob Seger e la Silver Bullet Band. Ah, immancabile, bello preciso. Give me Heavy Rotation, All Time Rock and Roll, Bob Seger and the Silver Bullet Band. Eccolo qui l'inizio musicale di Pane, Burro e Rock and Roll di quest'oggi. Una buona giornata dall'Ariele, vediamo di svegliarvi al meglio. Questa è la colazione servita alle prime ore della giornata da Rock FM. Stamattina sono contento per quello che è accaduto negli studi qui, prima ancora che arrivasse Spadino. Ero solo soletto e c'è un personaggio nei nostri studi del quale non vi ho mai parlato, che è il mitico Ernesto, detto anche Ernest. Ernest è quello che viene qui negli studi a mettere un po' a posto, a pulicchiare, diciamo, a pulire. È filippino, quindi non c'è una grandissima comunicazione tra di noi, cioè c'è, la instauriamo a parole mezze dette, mezze in inglese, insomma ci si capisce a gesti il più delle volte. Stava andando in onda il brano Imagine di John Lennon e per la prima volta l'ho sentito canticchiare, è stato molto carina come cosa. Questo Lennon internazionale mi ha molto emozionato, quindi saluto il buon Ernest se mi sta ascoltando, è di là che lava i pavimenti. È lavoraccio lavorare per Rock FM, mettere a posto gli studi di Rock FM. Voi non potete immaginare come sono alla fine della giornata questi studi. Da quando poi abbiamo inserito nello staff anche Fricantoni, ehi, bottiglie di chinotto ovunque, biscotti sparsi. Un vero casino, una vera cacciara. Partecipate anche voi alla cacciara di Pane, Burro e Rock and Roll. Vi lascio un contatto importante, il numero di SMS, che è il 335-100-7777, oppure ariel@radiorockfm.com. Cosa state facendo? Cosa combinate? Qualcuno che ha bisogno di strombazzate? È arrivato Frick? Buona! Ci siamo, archiviato Frick Antoni anche per quest'oggi. Ci stiamo. C'è anche oggi, figo. Scusate, la redazione ci tiene a farmelo sapere in diretta. Eh no, fate bene ragazzi, fate molto bene. Guarda qui che bel brano che ho da... Oh, Pet Sematary dei Ramones. Io ho un'ottima notizia su questo brano, eh. Sta per uscire un nuovo singolo, o meglio un nuovo album della mia band, Pay. E all'interno di questo EP, un CD di sei brani, c'è anche una cover di Pet Sematary. E quindi spero di potervi far ascoltare il prima possibile. Il disco sarà downloadabile gratuitamente sul nostro sito internet, quindi vi terrò aggiornati. Intanto gustiamoci la bella versione originale. Loro sono i Ramones. Oh, Pet Sematary. Yeah. Under the octopus with the steamboats in Chicago and Wallows. Come at the grand light making a sound. The smell of death is on the rim. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a Pet Sematary. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More loops and fangs that are clicking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a Pet Sematary. To live my life again. I don't wanna be buried in a Pet Sematary. I don't want to live my Finalmente non sono più solo con quella testa calda di Spadino in questi studi, perché è arrivato anche lui. È arrivato l'arrotino, no, donne, l'arrotino ombrellaio. Roberto Fricantoni, pronto per l'almanacco del giorno che fu. È arrivato l'arrotino oggi 28 novembre, sì. Se avete ombrelli, coltelli da riparare, portateli alla sede di Rock FM. È dura, ma potremmo farcela. Inizio io con l'almanacco. Era Vadi. Il 28 novembre del 1520. Quando, dopo aver navigato attraverso lo stretto sudamericano, che da allora prenderà il nome di Magellano, tre navi al comando dell'esploratore, per l'appunto Ferdinando Magellano, raggiungono l'Oceano Pacifico. Tre navi che, come da contratto, che facevano in quel sta periodo, dicendo una stronzata, la dica, sì. Gli esploratori si chiamavano Nina, eccolo, Pinta, esatto, e Santa Maria. No, quello era un Colombo. Contratto standard che tutti gli esploratori dovevano firmare per avere sovvenzioni dai sovrani. Ho paura che la sparerà grossa anche sulla prossima. Era il 1893, per la prima volta nella storia delle donne votano ad un'elezione nazionale, erano le elezioni generali neozelandesi. Evviva! Evviva! E da allora sono iniziati i nostri guai. Eccolo. Dovrei fare due chiacchiere con questi neozelandesi. Ma lei lo sciovinista lo fa da contratto o lo è veramente? Un po' entrambe le cose, diciamo il 50-50, 50-50, come dicono i francesi. Sì, va bene. Una notizia decisamente rock: 1969, i Rolling Stones pubblicano il classico Let It Bleed. Per contrastare. Sì. Vede, insisto sull'R per dare più il senso del contrasto, sì. Per contrastare Let It Be dei certo. Beatles. Invece lascialo sanguinare. Bravissimo. Anziché lascia che sia, va bene. Bene. Passiamo e chiudiamo con una notizia del 1974. Ultima apparizione, non pianga, so che lei soffre per queste notizie. Ultima apparizione live di John Lennon, duetto con Elton John in tre brani durante il concerto del buon Elton John. Dispiace, però dispiace. Lei si commuove sempre un po' a parlare di Lennon, eh? Sì. Ce l'ha nel cuore. Sì, è vero. Io ammiro quest'uomo, ma pensi alla forza creativa di quest'artista che scrive Imagine. Ah, sì. Un capolavoro. Viva John Lennon. Viva! Chicago. Yeah, I wanna be your toy. Voglio essere il tuo ragazzino, il tuo giocattolo, e lo sarò fino alle 9 del mattino. Ma che cazzo, ma state zitto, eh. Buon risveglio, 7-18 minuti primi. Le coordinate ve le ho già belle che ricordate, un sms e una casella di posta elettronica. Guardavo da scaletta, essendo oggi il 28 di novembre, io mi ero appuntato che il 29, quindi domani, un nostro radioascoltatore, Mattia di Rotterdam, che ci aveva contattato settimana scorsa, dovrebbe partire, cioè domani parte. Vi ricordo che aveva un problema con la vicina, con l'inglesina vicina, che oltre a non avergliela data gli rompeva un po' le scatole, quindi aveva chiesto aiuto agli ascoltatori di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Redazione, se rintracciate gli sms degli ascoltatori della settimana, poi contattiamo Rotterdam e diamo un po' di consigli a Mattia. Mi sembra una buona idea, eh? Se non ci penso io a ste cose, redazione, però. Voi cosa state lì a fare, eh? Vi preoccupate sempre solo del chinotto dell'Antoni. È un filo di gelosia, è con un filo di gelosia che dico questa cosa. Invece mi occupo di un altro, di un'altra notiziona con la quale si è inaugurata la mia casella di posta elettronica stamane. È Carlo, che saluto. Tra l'altro stasera io e Carlo abbiamo anche un appuntamento. Non posso dirvi nulla, nulla di più. No, non quello che state pensando voi. Andiamo in piscina, vi dico. Ma nemmeno anche lì, non per fare quello che pensate voi. Non posso dirvelo cosa andiamo a fare. Però lo ringrazio anticipatamente. Poi vi faremo sapere cosa stiamo combinando. Intanto sono arrivate, ragazzi, sono usciti, è uscito un ambo. È uscito un ambo dei numeri dati riguardanti i parenti serpenti, il 79 e il 33 sulla ruota di Firenze. Quindi speriamo che qualcuno di voi lo avesse giocato e quindi ha vinto, perché ovviamente Carlo non ha vinto come da contratto. Aspetta che muoio e torno. Oggi non ci arrivo fino alle 9. No. Mentre, attenzione, sembra che Carla ce l'abbia fatta. Sciura Carla, complimenti! Se l'ha beccato, complimentoni, siamo contenti. Bisognerebbe festeggiare con una bella teiera di cassoiola, secondo me. Dai tarocchi passiamo al tormentore della cassoiola, che secondo me è meglio. Buona giornata, Carla, anche a lei. Chissà se apprezza il brano che sto per far partire. Io sicuramente me lo gusto tutto quanto. Un po' di follia. Si chiamano Kim Crimson. E da 20th Century Boy passiamo a 21st Century Schizoid Man. A tutti gli schizofrenici all'ascolto, vi saluta l'Ariele, detto Mr. Granchio. We'll be right back.